soliti pensieri come un fondo d'ossessione. Che strana questa notte, corre farsene ragione di me, che non so più quello di prima di te, del mondo e della sua natura. Ed è come un continuo analizzare proprio se il blu era il colore di te, del mondo, del mare dove più profondo, dei tuoi occhi e del tuo amore più tremendo. Ma la notte mi dirà, vedendo in me, che c'era qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Sì, ma la notte mi dirà, vedendo in me, che c'era qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Soggetto e sostanziale, giudizio poi si formula e per noi è naturale. La natura è tremendo, è solo oggetto, è materia per l'eterno. Dobbiamo adesso considerare il legame che si stipula tra essere e dovere, dover essere. La materia è innaturale, la natura di per sé è umanamente innaturale. Ma la notte mi dirà, vedendo in me, che c'era qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Sì, ma la notte mi dirà, vedendo in me, che c'era qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Yeah, yeah, yeah. Probabilmente un giorno tornerà. Sì, ma la notte mi dirà, vedendo in me, che c'era qualcosa che probabilmente un giorno tornerà. Qualcosa che probabilmente un giorno.